Noi abbiamo una costume in tutto quello. No, voglio quello che dice il mare. L'acqua è per la luna. Mamma mia, una cosa tremenda, è stata una giornata maledetta. No, perché ti ho visto là, là. Allora non me lo sono accorto. No, perché tu non sta qua, là, là. Cazzo, tutto un attimo, ma non lo dico. Mi ha girato le cose. Mamma mia, è una giornata lì.